Test del mic, ascolta. Che ne sai dell'hip hop italiano? Che ne sai del microfono in mano? Che ne sai del vinile che ruota, dei b-boy dentro il cerchio che infuoca? Che ne sai? Che ne sai dei graffiti sui tetti? Che ne sai dei bonghi sui treni? Che ne sai? Che ne sai? Che ne sai sopra tutto quanto te? In Italia si parla massimo di tre argomenti che riescono a lasciare tutti scontenti. Io ricerco un dialogo un po' più vario, c'è da dire prima di calare il sipario. Se tra i dischi faccio un inventario, non ce n'è uno che non mi sia necessario. Pete Rock e sia il primo album Reminisce, Trap Call Quest come Antistress, ispiravano anche al grande Stevie Wonder, Brand Nubian, Daylight, Jungle Brother, Busy B, KRS, Sa Bronx, Bob Marley Jr., Kelly e Peter Tosh. E pensare che talvolta, sì, pensare che talvolta mi guardano, e pensare che talvolta mi guardano strano. Ma che ne sai? Ma che ne sai? Che ne sai dell'hip hop italiano? Che ne sai del microfono in mano? Che ne sai del vinile che ruota, dei b-boy dentro il cerchio che infuoca? Che ne sai? Che ne sai dei graffiti sui tetti? Che ne sai dei bombi sui treni? Che ne sai? Che ne sai? Che ne sai soprattutto quanto te la menti? Che ne sai di John Lydon e Bambata? Han prodotto il pezzo World Destruction. Ice One mi ha rifatto mettere sul piatto il leggendario Chubb Rock. Sono soddisfatto, suono e so di farlo, selezionando 1, 2, 3 Bob James, so di che parlo. Rilanciala, la rifaccio più potente. Suono e so di farlo, selezionando 1, 2, 3 Bob James, so di che parlo. L'hanno usato i Run DMC in Peter Piper, Flavor in your ear per i freestyler, Jimmy Castro per il b-boy disastro e via, con Barry White per i momenti in dolce compagnia. Fantastic, romantic, proprio come i pionieri. Black Sheep è la dritta di ieri se non c'eri. E pensare che talvolta, e pensare che talvolta mi guardano, e pensare che talvolta mi guardano strano. Oh, ma che ne sai? Che ne sai? Che ne sai? Che ne sai dell'hip hop italiano? Che ne sai del microfono in mano? Che ne sai del vinile che ruota, dei b-boy dentro il cerchio che infuoca? Che ne sai? Che ne sai dei graffiti sui tetti? Che ne sai dei bombi sui treni? Che ne sai? Che ne sai? Che ne sai soprattutto quanto te la metti? Yes, se ne vuoi sapere chiedi a chi ne sa, no worry. Be happy, sei qui apposta. Test del chiave profession. Sai, che ne sai dell'hip hop italiano? Che ne sai del microfono in mano? Che ne sai del vinile che ruota, dei b-boy dentro il cerchio che infuoca? Che ne sai? Che ne sai dei graffiti sui tetti? Che ne sai dei bombi sui treni? Che ne sai? Che ne sai? Che ne sai soprattutto quanto te la meni? We'll be right back.